Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. In questa puntata, Dovrei essere fumo. Nel suo ultimo romanzo, Patrick Fogli racconta la Shoah con uno stile noir. Il libro della discordia, Melania Mazzucco replica a chi ha denunciato i professori per aver fatto leggere in classe Sei come sei, storia di una ragazzina figlia di una coppia gay. Al via, il Giro d'Italia in 80 librerie. Un titolo che sicuramente colpisce molto, Dovrei essere fumo. Questo è l'ultimo romanzo scritto da Patrick Fogli e pubblicato da PM. In copertina c'è una svastica nazista e poi c'è un virgolettato che dice: «Sono nato il 25 luglio del 1921, mi chiamo Emil Riemann e sono ebreo». Si capisce dunque che si tratta di un libro che parla in parte non solo della Shoah. Patrick Fogli è stato spesso ospite del Cacciatore di Libri con i suoi precedenti romanzi. L'abbiamo sempre presentato come uno degli scrittori noir, diciamo di punta, che abbiamo in Italia. Bolognese ha spesso legato le trame dei suoi libri a fatti realmente accaduti o comunque insomma si è fatto ispirare dalla realtà. Anche in questo Dovrei essere fumo c'è un legame con la realtà, anche se si tratta di personaggi inventati, e poi vi spiegheremo il perché. Patrick, questa volta tu hai deciso di fare un romanzo che parla anche, dicevo, di Shoah, perché ci sono due personaggi, sono due voci narranti. Da una parte c'è Alberto, che diciamo si capisce che è ambientato nei giorni nostri, ed è un personaggio piuttosto inquietante da diversi punti di vista, e poi c'è Emil, appunto quest'uomo ebreo che è stato rinchiuso ad Auschwitz, da qui il titolo Dovrei essere fumo. Allora partiamo da Alberto. All'inizio del libro si vede che questo Alberto è una sorta di guardia del corpo, ha fatto parte dei servizi segreti, giusto, è corretto in questa maniera, e riceve un compito piuttosto inusuale per lui. Sì, in realtà riceve un incarico di badante, in qualche modo, se vogliamo semplificarla. Alberto sì, viene dai corpi speciali, ha fatto in maniera piuttosto occulta tutte le guerre moderne, dall'Afghanistan al Kuwait, all'Iraq. Dopodiché smette perché non riesce più a sopportare quello che gli tocca fare, soprattutto quello che gli tocca di vedere come conseguenza di quello che lui fa. E si ricicla nel mondo civile come addetto alla sicurezza. Quando lo incontriamo nel libro ha qualche problema, nel senso che è appena andato oltre per proteggere un suo cliente. Esattamente, ecco. Poi lo vediamo che discute spesso col suo psichiatra, quindi capiamo anche il suo mondo emotivo, il suo mondo interiore. Sì, lui è andato oltre per difendere un suo cliente, ha reagito distinto e questa è una cosa che gli accende una luce d'allarme, perché non è abituato a pensare che il suo corpo possa reagire indipendentemente da quello che fa, quindi decide che è il momento di fermarsi un attimo. E in questa pausa riceve un incarico appunto abbastanza bislacco, perché gli chiedono di sorvegliare una persona molto anziana, molto malata, praticamente morente, in una clinica privata. Un uomo ossessionato dalla sua sicurezza, che non vuole dire il suo nome reale, che ha tutta una corte di protettori, diciamo così. Si capisce intorno. Che insomma ci sono dei segreti, è una persona malata, insomma. Una persona malata che nasconde segreti suoi e probabilmente segreti non suoi, che custodisce segreti non suoi. Questo è l'incarico perfetto per uno che è abituato a stare in guerra. Deve stare in una stanza al turno di notte a guardare questo uomo che apparentemente sta morendo. I capitoli, dicevo, sono alternati, quindi una parte è narrata da Alberto che deve accudire, proteggere, insomma, quest'uomo. L'altra è narrata da Emil, che racconta sostanzialmente la sua esperienza terrificante, inutile dirlo, ad Auschwitz. Emil è un sopravvissuto di Auschwitz, infatti il titolo Dovevo essere fumo. In certo senso anche Alberto, dall'idea di essere un sopravvissuto, insomma una persona che ne ha viste tante nella vita, ha visto il male e fa fatica a ritrovare l'equilibrio nella vita reale. Sono due sopravvissuti in maniera assoluta. Uno è una vittima, Emil è una vittima, perché si trova molto giovane a essere deportato ad Auschwitz, passa diversi anni nel Sonderkommando, quindi sostanzialmente è uno degli ingranaggi fondamentali della macchina dello sterminio, sopravvive suo malgrado, nemmeno lui saprebbe spiegare probabilmente perché. Alberto è sia una vittima che un carnefice, perché in realtà lui smette di fare il suo mestiere perché si rende conto che anziché essere un soldato, un eroe, diciamola così, diventa un carnefice. E diventa vittima sostanzialmente del mondo in cui ha vissuto fin lì. Si rende conto che forse tutto quello che pensava avesse un senso non ce l'ha. È il personaggio che si interroga di più anche sul male, sul perché è stato fatto e perché lui stesso l'ha compiuto. Cioè, fra i due personaggi, Emile, nel momento in cui, diciamo, narra la sua storia, lo fa con un linguaggio di cronaca, quasi giornalistico, quasi senza aggettivi, mentre il linguaggio di Alberto è sicuramente più emotivo. E lui, diciamo, l'aspetto dove tu hai voluto, è lui il personaggio dove hai voluto concentrare forse anche la tua visione del mondo, il rapporto col male, il bene. Ma in un certo senso sì, la risposta potrebbe essere sia sì che no. Sì, perché Alberto si presta meglio come personaggio a una storia quotidiana, una storia di oggi, una storia in cui il fantasma e la presenza del campo di concentramento non è così forte, e quindi si poteva prestare bene anche a far vedere che cosa di quel mondo concentrazionario che vive Emil in realtà è rimasto qui e ora. Dall'altra parte la risposta è no, perché Emil non poteva essere scritto che così. Perché la Shoah non si riesce a raccontare o per qualche altra ragione? Ma no, perché il primo dubbio di questa scrittura è stata come raccontare la Shoah. Questo è un libro che viene da lontanissimo, forse ho cominciato a ragionare della storia di Emil una ventina di anni fa, quindi insomma è veramente un libro che viene da lontano. Però dopo il racconto dei testimoni e dopo tutti i racconti di seconda o terza mano, che sono spesso e volentieri troppo grondanti retorica o grondanti pietismo o grondanti emozioni facili, come puoi raccontare la Shoah? La risposta che mi sono dato è: la puoi raccontare come la racconterebbe Emil Riemann se fosse veramente esistito, come qualche cosa che gli è accaduto. Se tu senti racconti dei testimoni di prima mano, e ne ho sentiti moltissimi, se tu li senti parlare, Fin quando riescono a raccontare, cioè fin quando non crollano, ecco, ti raccontano quello che gli è accaduto, semplicemente perché gli è accaduto. Le domande ci sono, ma sono domande che vengono dopo, e sono poi le domande che si fa Emil nel libro: perché io sono vivo, tutti gli altri sono morti. Tutti gli altri sono morti. Io, per esempio, Patrick, non potrò mai dimenticare un incontro al Salone del Libro di Torino di alcuni anni fa con uno scrittore ebreo straordinario, Aaron Appelfeld, e lui dice sempre questa cosa, la ripete spesso, dice: è quasi impossibile scrivere di Shoah, perché le parole non riescono a rendere quell'orrore, quindi è inutile che anche noi testimoni di quell'orrore ci sforziamo, perché tanto non si arriverà mai a capirlo fino in fondo. C'è anche questa difficoltà proprio. Ma è difficilissimo, ed è secondo me la paura più grossa che ho io nei confronti degli anni a venire. Nel senso che la Shoah è un evento gigantesco, enorme. Tutti quanti sappiamo di che cosa si tratta, però tutti quanti abbiamo coscienza, secondo me, fino a un certo punto di quanto enorme è questa storia. Testimone per testimone, io ricordo appunto una di queste testimonianze di un ebreo cecoslovacco che è il papà di Emil Riemann, nasce da lì, che dice una cosa semplicissima che io riporto nel libro in bocca ad Emil, che però è atroce e riunisce in poche parole tutto il succo di questi racconti, che chi vuole vivere è condannato a sperare. Infatti è la frase che tu scrivi poi alla fine dei ringraziamenti, sì. Dice che questa è la frase che ti ha smosso, insomma. Sì, perché in realtà racchiude tutto, cioè che tu, se vuoi sopravvivere, devi essere, sei condannato a sperare che domani sia meglio di oggi, perché oggi è talmente indicibile che domani non può essere peggio. Ti riassume, secondo me, molto semplicemente tutto quello che gli è accaduto e tutto quello che continua a accadergli anche fuori dal lager, perché poi molti di loro, basta ricordare il caso di Primo Levi, molti di loro sono riusciti a sopravvivere al lager, ma non più alla vita civile. Dicevamo all'inizio che Emile è un personaggio inventato, però tu in lui hai messo tante cose vere, cioè di testimonianze che tu stesso hai ascoltato. Emil Riemann non esiste, ma tutto quello che accade a Emil Riemann è accaduto davvero, tutto. Il tentativo è di riassumere dentro la sua vita le vite di tutti. È stato difficilissimo tagliare, perché di episodi ce ne sarebbero stati tantissimi. Io ne ricordo uno, questo si può tranquillamente dire, perché poi l'episodio scatenante del suo racconto, del suo diario, quando lui a un certo punto nello spogliatoio, dopo aver chiuso questo gruppo di donne cecoslovacche nel libro francesi, dentro la camera a gas, lui decide che non ce la fa più, vuole entrare nella camera a gas anche lui, e una donna gli si avvicina e dice: ma tu cosa fai? Tu devi continuare, devi uscire, devi vivere, devi cercare di rimanere vivo, perché poi devi raccontare quello che hai visto, perché se non lo racconti tu non sarà mai accaduto. A malincuore, in qualche modo, lui lo fa. C'è un altro episodio allucinante di un gruppo di ebrei chiusi nella camera a gas, consapevoli di quello che gli sta accadendo, che prima che parta il ciclone, quindi che vengano gasati, cantano l'inno nazionale. Sono episodi, sentirli raccontati a me personalmente dalla pelle d'oca, ecco. Patrick Fogli, però, lo dicevamo anche prima, è un noirista, ha una penna noir. E quindi hai voluto raccontare la Shoah mettendoci comunque un tocco noir, nel senso che ci sono dei misteri, ci sono dei segreti, non è come potrebbe apparire subito all'inizio, cioè il legame fra Emile e Alberto non è così banale, quindi non pensate di averlo indovinato subito nelle prime pagine. In che modo hai costruito appunto questa trama noir con un argomento insomma così difficile da maneggiare? Ma guarda, la storia di Emile era lì pronta, come ti dicevo prima, da molti anni. Aspettava un modo per essere raccontata. E proprio perché è brutto da dire, ma le storie della Shoah ne abbiamo già sentite tante, serviva un sistema per poterla raccontare oggi. E serviva un sistema per poter raccontare il legame che c'è tra quella crudeltà apparentemente inumana di quei giorni e il mondo che viviamo oggi. E l'unico modo che mi è venuto è la storia di Alberto. C'è un legame tra due guerre lontane, tra due crudeltà lontane, tra due situazioni inumane lontane, che prendesse quella del 1942-45 e la riportasse qui ora. Poi sai, ognuno ha la sua attitudine. Uno dei film che più ho amato in vita mia è Il Maratoneta, che in realtà non fa una cosa molto diversa, pur non avendo la parte nella Seconda Guerra Mondiale, però non fa una cosa molto diversa, racconta di crudeltà oggi riportando quella crudeltà di allora, in una maniera molto sottile, molto cerebrale, e anche con un tentativo che ho cercato di fare nel libro, una grossa differenza di scrittura, perché poi Emil che parla in prima persona... Sì, hanno proprio due voci completamente diverse, quindi anche in questo hai fatto diciamo, un lavoro da narratore, da scrittore, da romanziere, piuttosto notevole, insomma, perché dover dare proprio due stili diversi quasi. Sì, tra l'altro Emile è un caso unico per me perché è scritto al passato remoto. Io non scrivo mai passato remoto, scrivo presente. Emile è scritto al passato remoto ed è forse quel passato remoto ha creato il modo di scrivere diverso, perché cambiando completamente tempo verbale poi devi giocare con le parole in una maniera diversa. E poi Emile è il racconto in prima persona di un sopravvissuto che fa alla fine della sua vita, quindi è la penna di una persona di una certa età che ha vissuto in un'altra epoca e quindi andava che comunque... come dicevamo prima, insomma, come tante altre persone purtroppo c'è passato da quel male assoluto e quindi non c'è altro modo per raccontarlo. Esatto. Prima di salutarti Patrick, vorrei che tu raccontassi ai nostri ascoltatori la genesi del titolo, insomma, Dovrei essere fumo. In realtà sappiamo che il titolo, anzi ci hai confidato che il titolo doveva essere un altro, poi insomma è stato scelto questo che secondo me è molto efficace. Perché? Perché c'è una sorta di tormentone a un certo punto nel romanzo. Qual è? C'è un tormentone nel romanzo che è il punto di vista di Dio. Tutti quanti i personaggi di questo romanzo finiscono per interrogarsi sul punto di vista di Dio. Sia Alberto fuori in molte delle conversazioni che ha con questa persona che sta proteggendo, sia Emil soprattutto nell'ultima parte fuori dal lager. Emil dice: io sono ebreo per caso, è semplicemente una questione di discendenza, non sono religioso, non lo sono mai stato. Sì, però... lo dice, è quasi un accidente della vita, sì, insomma, esatto. Lo racconta proprio così. Però la domanda su dov'è Dio nel lager e dov'è Dio fuori dal lager, c'è lo stesso nazista, questa è un'altra cosa che si può dire, lo stesso nazista raccontando quello che è accaduto allora dice: noi abbiamo riscritto il primo comandamento, non avrai altro Dio lì fuori di noi. Quello doveva essere il titolo del libro, poi i libri sono questioni anche di vendibilità. Ma il senso è che ritorna questo, come dire, io ho detto tormentone, insomma, fra virgolette, del punto di vista di Dio, che vuol dire tante cose, insomma. Vuol dire tante cose, specie in un libro come questo dove probabilmente nessuno dei protagonisti ha un rapporto con la religione. È un po' come dire il punto però di vista è la domanda che viene di fronte al male, il punto di vista del bene dov'è in quello che è accaduto e qual è soprattutto. Esatto. Qual è e dov'è? Grazie a Patrick Fogli, ora in libreria con Dovrei essere fumo, pubblicato da PM. Mi piace anche ricordare una frase appunto che hai scritto alla fine dei ringraziamenti, che è quella che ha dato un po' il là al tuo romanzo: chi vuole vivere è condannato a sperare. E ora veniamo a uno dei casi della settimana. Si è parlato molto in questi giorni del libro di Melania Mazzucco, Sai come sai, pubblicato da Einaudi. Un libro in cui si racconta la storia di una ragazzina che viene cresciuta da due padri, cioè da una coppia gay. Se ne è parlato molto perché questo libro è stato fatto leggere in un ginnasio, nel Giulio Cesare Liceo Classico a Roma, a due classi. Alcuni genitori però hanno deciso di denunciare questi due professori di lettere per diffusione di materiale pornografico e corruzione di minori. E tutto questo perché in 250 pagine di libro c'è una scena di sesso gay. Sentiamo allora come Melania Mazzucco ha risposto a questa polemica. Guardi, la mia prima reazione è stata di incredulità, di sconcerto, di sbigottimento. Poi avrei preso anche tutto quanto con un sorriso, nel senso che l'accusa è talmente ridicola che si annulla da sé. Però nello stesso tempo mi sono resa conto che invece non c'era affatto da ridere, che era una cosa molto grave quella che stava succedendo, perché si trattava di una vera e propria intimidazione. Intimidazione al lavoro serissimo che fanno nello specifico i professori del liceo romano in questione, però in realtà tutti i professori italiani in trincea nelle scuole pubbliche che cercano di dare ai ragazzi attraverso la lettura degli strumenti per comprendere la realtà, per comprendere il presente, un lavoro di cui nessuno li ringrazia, ma che è assolutamente fondamentale proprio per la formazione delle coscienze dei ragazzi. E quindi prendere a pretesto del tutto in maniera completamente assurda, estrapolando una scena da un romanzo di 250 pagine, la cui protagonista peraltro è una bambina e che vive effettivamente degli atti di bullismo abbastanza pesanti in una scuola italiana di oggi, e voleva dire, secondo me, cercare di silenziare il discorso vero che c'è dietro in questo romanzo. Il discorso che c'è dietro questo romanzo è il contrario dell'oscenità e della pornografia, ma è la normalità. La normalità di Eva, nata da due padri, la normalità dei suoi genitori, che sono due gay, che hanno voluto questa bambina, l'hanno cercata in capo al mondo, e soprattutto la normalità assoluta del sentimento che li lega. È questo che fa paura di Sei come sei, secondo me. Infatti il libro, l'abbiamo ripetuto anche più volte qui a Radio 24, è un libro assolutamente delicato, naturale. Si parla di questo rapporto di genitorialità come un rapporto assolutamente normale. Insomma, non si fa della denuncia sociale, del sensazionalismo e così via. Perché allora questa normalità, questo rapporto descritto con questa normalità, come diceva lei, ha spaventato tanto una parte dell'opinione pubblica? Beh, perché si vuole far credere invece che sia una cosa mostruosa, no? Si vuole far credere che non possa esistere una famiglia fatta da genitori dello stesso sesso, che l'amore fra persone dello stesso sesso, ancora non si riesce a parlarne in una scuola in maniera naturale, nonostante poi nelle classi, a scuola si studia latino, soprattutto in un liceo classico, quindi dell'amore greco e dei rapporti fra uomini, o anche dell'amore delle donne per le donne, si pensa a Saffo, cioè i ragazzi sanno tutto, no? Quindi ciò che sconcerta è vederlo invece in un libro contemporaneo in cui si parla di ragazzi come quelli che stanno leggendo, di famiglie come quelle che stanno leggendo, e quindi che ti fa vedere la realtà sotto un altro aspetto, senza scandalo, senza gridare, appunto con grande tenerezza. Di Giro d'Italia, sì, tutti magari avranno fatto riferimento al Giro d'Italia ciclistico, ma noi al Cacciatore di Libri ovviamente parliamo di un altro Giro d'Italia. La bicicletta c'entra sempre, ma c'entrano naturalmente anche e soprattutto i libri. Perché? Perché vi sto parlando del Giro d'Italia in 80 librerie, che è praticamente appena partito ed è un'iniziativa veramente molto molto originale, partita da Letteratura Rinnovabile, poi una serie di partner, adesso vedremo bene chi, cosa e come. In pratica ci saranno degli scrittori che pedalando andranno da una città ad un'altra, diciamo sulla scia della Via Francigena, poi arrivati a destinazione ci saranno una serie di iniziative che coinvolgeranno biblioteche, librerie e così via. Ne parliamo con Simone Sacco, che è l'ideatore di questo originale Giro d'Italia in 80 librerie. Simone, innanzitutto, come ti è venuta questa idea? Cioè, hai pensato, sei un fan della bicicletta? Ma In realtà questa idea mi è venuta pedalando, sembra banale ma è vero, e pedalando dopo parecchi anni che non pedalavo più, quindi io lavoravo nel settore dell'editoria e pedalando su una pista ciclabile con un amico ho detto ma perché non mettere il mondo dell'editoria su sellino? Anche perché insomma chi lavora nell'editoria pedala molto nella vita, perché sappiamo che è parecchio difficile in questo periodo lavorare sì. Nel mondo dell'editoria. Tanto che il titolo iniziale della mia idea, prima di parlarne appunto con Letteratura Rinnovabile, quindi con Marco Zapparoli e Claudio Tarolo, era editoria in mutandem, quindi l'idea era di mettere proprio su un tandem gli scrittori. Degli scrittori, invece poi insomma ognuno va con la sua bicicletta. E appena partita insomma c'è stata già la prima tappa, che è stata inaugurata da un ospite d'eccezione. Chi è stato? È stato Tony Wheeler, il mitico inventore delle guide Lonely Planet, che ci ha fatto l'onore di aprire appunto il giro partendo da Aosta e pedalando fino a Ivrea. Ha pedalato fino a Ivrea, quindi ogni tappa sostanzialmente ci sarete voi dello staff e alcuni scrittori che di volta in volta vi accompagneranno. Chi sono gli scrittori che vi accompagneranno un po' in questo viaggio? Ma gli scrittori sono veramente tanti. Posso citare alcuni nomi, ad esempio cito Marco Vichi, poi cito Cristiano Pina, poi Antonio Pascale, poi Davide Nia, Melania Mazzucco, e ce ne sono tanti. E Andrea Vitali, non ti dimenticare il nostro Andrea Vitali che pedalerà a Crema. Quindi allora diamo subito le indicazioni per i nostri ascoltatori, perché non saranno solo gli scrittori a pedalare, ma tutti gli appassionati di bicicletta e di libri possono naturalmente pedalare insieme a loro in queste varie tappe. Dove si trovano le tappe e i punti di ritrovo dei vari appuntamenti? Allora, tutte le indicazioni relative agli appuntamenti sono sul sito di Letteratura Rinnovabile, www.letteraturarinnovabile.com. Una volta che arrivate in una città, naturalmente qui succedono delle cose, insomma. Succedono delle cose che coinvolgono librerie, biblioteche, varie iniziative, ma ce n'è una particolarmente curiosa che riguarda le biglie. Cioè, avete organizzato la Coppa Italia di biglie a coppie, in cui sì. C'entrano gli scrittori, ma gli scrittori c'entrano perché c'è la loro faccia proprio disegnata sulle biglie. In che cosa consiste questa, sì, questa gara? Ci siamo inventati questa cosa, abbiamo praticamente realizzato le biglie, quelle che usavano una volta per giocare sulla sabbia, con le facce dei ciclisti, abbiamo sostituito ai ciclisti gli scrittori, con queste biglie noi facciamo proprio delle vere e proprie gare, che possono essere o sulle spiagge della Toscana, quindi sulla sabbia saranno, oppure saranno in libreria, dove le piste sono proprio realizzate coi libri in alcuni casi. I vincitori delle varie tappe saranno ospitati a Vasto, al Campeggio Libro, e il vincitore... Attenzione, Campeggio Libro, non Campeggio Libero. Libero, perché è libero, però è legato al libro. Cioè è gratuita l'ospitalità, però ha a che fare con audiolibri, libri. A che fare con audiolibri, ci saranno le tende parlanti, ci saranno le biciclette parlanti, ci saranno letture bendate. Insomma, il giro d'Italia in 80 librerie è appena iniziato e terminerà fra il 21 e il 22 giugno a Roma con una pedalata speciale dedicata alla Roma di Pasolini. Noi del Cacciatore di Libri vi seguiremo tappa per tappa, ci sentiremo ogni tanto per sapere che cosa avete combinato e soprattutto come si sono comportate gli scrittori, per vedere se sono veramente così pigri come si pensa oppure se sono effettivamente atletici anche loro. Grazie allora Simone Sacco di Letteratura Rinnovabile e ci sentiamo naturalmente alla prossima tappa del Giro d'Italia in 80 librerie. E vi ricordo che tutte le tappe alle quali potete naturalmente partecipare anche voi con la vostra bicicletta le trovate su letteraturarinnovabile.com. E anche il Giro d'Italia in 80 librerie farà tappa al Salone del Libro di Torino, ormai mancano pochissimi giorni, lo ricordiamo, si terrà a Lingotto da giovedì 8 a lunedì 12 maggio. Ho curiosato un po' fra i tantissimi eventi, tantissimi incontri che ci sono sul sito salonedellibro.it, cioè veramente l'imbarazzo della scelta, però così veramente ve ne segnalo alcuni che mi hanno colpito particolarmente, insomma che mi hanno incuriosita. Beh, innanzitutto l'incontro con Stefano Benni. Stefano Benni che torna alla narrativa con un romanzo che si intitola Pantera, che è la storia di una giocatrice di biliardo. È sempre un piacere sentir parlare Stefano Benni, oltre che leggerlo naturalmente. Un altro incontro che mi intrigano un poco è quello fra due scrittori, diciamo, di romanzi storico-avventurosi, lo spagnolo Ildefonso Falcones e l'italianissimo Marco Buticchi. Falcones con La regina scalza, Buticchi con La stella di pietra, l'incontro ci sarà sabato. Ancora un mix, secondo me imperdibile, fra un autore straniero e uno italiano, Niccolò Ammaniti, che incontra Joe Lansdale per consegnargli il premio letterario internazionale Mondello. Joe Lansdale è uno scrittore veramente eccezionale, insomma è forse uno dei maestri del crime americano di questi ultimi anni, ed è poi un uomo veramente molto molto simpatico, un texano con la battuta sempre pronta. Per quanto riguarda invece gli italiani, l'incontro degli incontri, chiamiamolo così, è quello fra Francesco Piccolo, papabile, vincitore del premio Strega con Il desiderio di essere come tutti, e Michele Serra, che è stato un po' il caso editoriale della seconda parte del 2013 con Gli sdraiati. Si incontreranno sabato e parleranno di italiani fra comico e tragico. Cantanti che scrivono romanzi ormai non è quasi più una notizia. Al Salone del Libro di Torino si potranno incontrare sia Ivano Fossati con il suo romanzo 335 che Piero Pelù, che ha scritto il suo primo libro e si intitola Identikit di un ribelle. Mi fa piacere anche segnalare l'incontro con Jeep, insomma il maestro del graphic novel all'italiana, e parlerà naturalmente della sua ultima opera, Una storia. Anche per oggi è tutto, grazie in regia a Filippo Aureggi. Come sempre noi ci sentiremo sabato prossimo, una puntata speciale dal Salone del Libro di Torino. Mi trovate su Twitter come Ale Teddina, su Facebook e naturalmente le puntate d'archivio su radio24.it. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.